Ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola. Ancora una, poi smetto. Lo abbiamo fatto ancora. Quando una serie ci prende, una puntata sola diventa subito una maratona. Ovviamente se la serie è quella giusta. E come si fa a scegliere quella giusta? Gli algoritmi spesso ci azzeccano, gli amici ci conoscono, ma ci siamo anche noi. Oggi vi consiglio le migliori serie con protagonisti e temi LGBTQ+. Mi aiuta Paolo Armelli, giornalista che con Daniele Biaggi ha fondato la piattaforma Quid Queer Identities. Partiamo da quella che è stata forse la prima sitcom apertamente queer, la leggendaria Will & Grace. Sì, in realtà è stato veramente il primo programma di prima serata negli Stati Uniti ad avere un protagonista, innanzitutto nel titolo Will, omosessuale, poi c'era anche la sua, come dire, la sua spalla comica Jack, Karen, poi non ne parliamo, sembra che sia sempre un po' bisessuale, non si capisce bene, però era veramente la prima sitcom di questo tipo, impostata con questi protagonisti. E c'è da sottolineare che parte nel 1998, solo l'anno prima, cioè nella stagione precedente, la sitcom di Ellen DeGeneres, appunto, che si chiamava Ellen, era stata chiusa dopo che Ellen aveva fatto coming out come lesbica. Quindi già il fatto che subito alla stagione successiva ci fosse una sitcom, comunque una serie TV di questo tipo, che avesse dei protagonisti omosessuali centrali, perché prima erano stati solo, appunto, secondari, molto di passaggio, delle macchiette, eccetera. Qui invece proprio Will & Grace proprio scardina la rappresentazione dei protagonisti, delle persone messe al centro della serialità televisiva. Quindi questo è stato veramente molto importante. Sorpresa! Joe e Larry ci hanno invitati domani a Southampton per una rimpatriata fra maschietti. Joe e Larry, stai scherzando? No, una serata selvaggia. Oh mio Dio, ti ricordi l'ultima festa? Oh sì. Ero così ubriaco che ricordo solo di essermi fatto uno nella vasca da bagno. Oh mio Dio, anch'io. In realtà non ricordo niente. È passato tanto tempo. Beh, la trama è semplice. Will e Grace vivono insieme, ma per una volta in una sitcom non sono una coppia. Perché nei primi episodi si gioca proprio su questa cosa, che loro sembrano la classica coppia da sitcom, che stanno insieme ma litigano, si fanno i dispetti, però non possono fare l'uno senza l'altra. Però appunto non hanno un rapporto sentimentale perché sono solo migliori amici, ma appunto a Will piacciono gli uomini così come a Grace. Omosessualità maschile sdoganata con Will & Grace. Per quanto riguarda invece le donne, c'è voluto un altro passetto? Sì, ci si mette sempre un po' di più purtroppo quando riguarda i temi femminili in generale, e per non parlare della sessualità, no? Quindi per avere delle donne lesbiche al centro di una serie bisogna attendere il 2004 con The L Word. Girls in tight dresses who drag with mustaches, chicks driving fast on genus with long lashes. Showtime, questo canale via cavo americano, proprio produce la prima serie TV che ha al centro un gruppo di donne lesbiche. Alcune sono lesbiche, alcune sono bisessuali, alcune sono eterosessuali, però alla ricerca della propria identità. Quindi c'è anche questo tema molto importante della definizione del sé, perché appunto non siamo tutti monolitici e ben definiti. The L Word, appunto, la parola L, che sta per lesbian, dà un nuovo tipo di rappresentazione anche a questo, a questa identità sessuale, a questo orientamento, non senza polemiche, perché non dimentichiamo che tutte queste serie comunque hanno sdoganato certi temi, ma a volte giocando anche su alcuni stereotipi che si portavano dietro, cioè per essere più digeribili, diciamo, dal pubblico generalista, a volte giocano su degli stereotipi che poi appunto nel migliore dei casi vengono ribaltati, e quindi passano dei messaggi veramente di diversità e di inclusione. Cioè le lesbiche di Delworld erano delle donne bellissime, curatissime, super estetizzate, forse con uno sguardo maschile, no? Quindi cioè come gli uomini si aspettano che le donne siano sempre. Invece in Will e Grace c'erano degli eccessi, ma appunto anche qui macchiettistici, che appunto erano un po' una strizzata d'occhio. Però diciamo che entrambe le serie poi hanno fatto il loro per veramente buttar via tutti questi luoghi comuni e cercare di fare un discorso veramente inclusivo e di rappresentazione di tutte le identità queer. La lunga saga di The L Word la troviamo ancora su Sky Go, ma nel 2020 c'è stata una nuova generazione. Sì, perché appunto le cose evolvono, anche le identità e la rappresentazione e la sensibilità nei confronti delle identità, degli orientamenti sessuali si evolvono. Infatti il revival di The L Word, che è partito negli Stati Uniti nel 2019 e invece è arrivato da noi su Sky nelle ultime settimane, si chiama The L Word Generation Q, e Q sta per queer, appunto questa parola un po' che racchiude tutte le varie sensibilità, le varie identità, e quindi anche questo revival vuole un attimo comunque aggiornare il discorso sui personaggi LGBTQ+, e appunto introducendo magari appunto persone che sono non solo omosessuali, lesbiche, bisessuali, ma anche non conformi, gender queer, quindi tutte quelle anche diciamo nuove tra virgolette definizioni che sono state elaborate in questi anni, ma che sostanzialmente indicavano identità che forse sono sempre esistite. C'è un tipo che si è trasferito qui. Ciao, sono Finley, io non vivo qui. Aspetta, scendo subito. Va a parlarci. Non credo di poterlo fare. E comunque sembra etero. Micah è gay. Gliel'ho chiesto. Quando sarò eletta sarò il primo sindaco lesbica di Los Angeles. Brava. È di ispirazione. Riesce ad ispirarmi ogni giorno. Credo che abbiamo l'opportunità di avere un impatto. Sai che succederà? Che cosa, Dan? Penserai che io non ti farò mai la proposta. Oh, lo penso già. Ma un giorno ti stupirò con effetti speciali e saranno tutti per te. Che cosa provi per lei? È una specie di vortice in quest'area. Si chiama amore, bella. No. Oh, sì. A un certo punto tutti noi abbiamo paura e facciamo delle cose che non dovremmo mai fare. Perché non abbiamo voglia di andare avanti. O non sappiamo come riuscirci. Quindi se diciamo queer non ci sbagliamo. Ci si sbaglia sempre, perché ci sono veramente tanti dibattiti su come bisogna utilizzare questi termini. Però diciamo che la maggior parte delle persone considera queer come un termine umbrella, come si dice in inglese, cioè che racchiude tutte le varie sfaccettature, ecco. Se ti dico un nome di creatore, di showrunner, perché molte volte lo ripetiamo spesso, se per il film c'è il grande regista, per le serie ci sono i grandi ideatori, gli showrunner che curano il prodotto. Se ti dico Ryan Murphy, tu cosa mi dici? Tanto di cappello Ryan Murphy, perché veramente è stato una delle persone simbolo, chiave, uno degli strumenti che proprio hanno scardinato, è stato un grimaldello autoriale nel panorama della serialità televisiva, perché vabbè, noi lo ricordiamo per Nip and Tuck, per Glee, per American Horror Story, ma lui in tutte le sue creazioni ha pian piano introdotto sempre un tassello di inclusività in più. I casting che lui faceva erano sempre, e fa tuttora, sono sempre virati alla rappresentazione, cioè persone omosessuali che fanno personaggi omosessuali, persone trans che fanno personaggi transgender. Quindi pensate che è tutta un'evoluzione che ci ha portato a Pose, che è una serie che negli ultimi anni, da noi la vediamo su Netflix, è stata veramente rivoluzionaria, perché racconta un mondo che forse non era mai arrivato al pubblico mainstream, cioè il pubblico che guarda la televisione o comunque guarda le serie sulle piattaforme di streaming non era mai arrivato a conoscenza di cosa fosse la ballroom scene degli anni 80 e 90 della comunità queer newyorkese, per dire, non ha mai saputo cos'era veramente il voguing, anche se tutti sappiamo cos'è la canzone di Madonna, ma non sappiamo magari che si è ispirata proprio a tutte queste competizioni che mettevano appunto in gara persone, soprattutto drag queen, soprattutto transessuali, soprattutto di origine afroamericane oppure latine. E Pose racconta tutto questo. Forza, figlie, è tempo di ricordare al mondo chi siamo. Jackpot. Madre, cosa prendiamo? Prendete tutto. La categoria è regalità. Che cos'è esattamente una ball? Una ball è un raduno di persone a cui viene impedito di riunirsi altrove. Chi? Quel ragazzo bianco? È la prima volta che fai una cosa così? Sì. Che cosa vuoi dalla vita? Voglio essere trattata come una donna normale. Ecco il mio sogno. Ho sogni più grandi che esibirmi a una ball. Vorresti unirti a una casa? Che vuoi dire? Una casa è una famiglia che scegli tu. Quindi è così che si sente una persona che può cenare nella Rainbow Room. E cos'è meglio, il sogno o la realtà? La realtà. Ovviamente Murphy è un autore anche molto furbino, quindi c'è sempre una grande estetizzazione, un grande uso del melodramma, delle scelte proprio a volte strappalacrime. Però, ad esempio, non si può negare che Pose sia ad oggi la serie televisiva che ha il cast più inclusivo di sempre, cioè i personaggi principali soprattutto sono transessuali, transgender, persone omosessuali, persone di colore, quindi è veramente la sua azione narrativa è stata potente anche da questo punto di vista della rappresentazione. E poi non dimentichiamo serie recentissime come The Politician o Hollywood, che appunto anche lì raccontano ancora delle storie queer come non sono mai state raccontate. Brevemente, Hollywood riscrive la storia di Hollywood appunto pensando come sarebbe stata la storia del cinema se a decidere, se a scrivere le sceneggiature, se a interpretarle fossero stati dei personaggi, cioè delle persone apertamente omosessuali, delle persone di colore oppure delle donne, appunto, che invece sono sempre state relegate e forse ancora molto spesso oggi lo sono a ruoli comprimari. Quindi Ryan Murphy, diciamo, riscrive tutto, riscrive la storia, riscrive il costume, eccetera, e porta avanti dei discorsi importanti. Questa è la città dei sogni per antonomasia e alcuni clienti non vogliono solo fare benzina. Qual è la parola in codice? Dreamland. Voglio andare a Dreamland. Allora tu sali in macchina, magari bevete qualcosa insieme e qualche volta devi fargli un servizietto. No, voglio fare cinema, diventare una star. Io voglio prendere la storia di Hollywood e riscriverla di nuovo. La East Pictures ha per le mani un film che ci entusiasma molto. Parla di fama, di come Hollywood riduca le persone. Lui è lo sceneggiatore Archie Coleman. È un vero piacere conoscervi. Sei di colore. Adoro. Hollywood un po' controversa, però non tutti l'hanno amata tantissimo. Io devo dire, mi sono divertita, mi è piaciuto alcune, appunto, l'idea della riscrittura mi piace, come mi è piaciuta in Once Upon a Time di Hollywood di Tarantino. Devo dire che però, senza fare spoiler, è alla fine un po' di melassa c'è in questa Hollywood. Sì, anch'io non ho trovato il progetto compiutamente riuscito, soprattutto, come dici tu, anche se non svegliamo niente nell'epilogo, in come, cioè dove si va a parare, diciamo. C'è una volontà di dire la storia sarebbe potuta andare diversamente se si fossero fatti dei passi diversi. È anche vero che, almeno secondo me, dal punto di vista anche punto di vista appunto della storia del costume, dell'attivismo, eccetera, negare che ci sia stato un percorso spesso molto difficile è problematico e soprattutto non so quanto sia convincente dal punto di vista narrativo trasformare tutto in un'utopia o addirittura in uno ucronia, cioè qualcosa, una storia alternativa che non è mai stata. Cioè, piuttosto pensiamo a qual è stata la storia, cioè forse io avrei preferito mille volte la storia di Rock Hudson veramente come è stata, come si è svolta veramente, o la storia del manager Henry Wilson interpretato da Jim Parsons. Cioè forse andiamo a vedere la storia veramente com'è stata, perché appunto soprattutto la comunità LGBTQ+ ha avuto una storia molto difficile, a volte anche con dei grandi exploit, perché non bisogna dimenticare che ci sono stati dei paladini e dei personaggi che hanno avuto successo, a volte ancora sconosciuti ad oggi, però è stata anche una storia difficile, una storia brutta, e andrebbe raccontata molto più spesso quella, forse, ma magari è una mia opinione personale, ecco. Se non altro ci ha spinto a fare delle ricerche, personaggi che io personalmente non conoscevo e che ho conosciuto. Da Netflix ti faccio fare un salto ad Amazon Prime Video. Serie premiatissima, caduta però nelle maglie del Me Too, nei problemi del suo protagonista, Transparent. Serie molto molto amata, e poi insomma qualcosa è successo nella vita reale degli attori. Transparent, serie molto amata, come hai detto tu giustamente, molto anche, devo dire, non facilissima per chi non è abituato a un certo tipo di serialità, perché ha le sue stranezze. Appunto, Transparent, creata da Jill Soloway, che è questa creatrice, questa autrice, che però si fa un po' fatica in italiano, perché si definisce non binaria lei in realtà, quindi è difficile attribuirle un genere, però l'italiano ha questi limiti. In ogni caso, che in onda manda appunto la storia di una persona transessuale, di una donna transessuale. A interpretarla è Jeffrey Tambor, come alludevi tu prima, un attore appunto, e anche questo è problematico, perché c'è chi è convinto che le storie transessuali vadano raccontate da attori transessuali e non dall'ennesimo attore eterosessuale che appunto si traveste da donna. Però anche qui forse c'è bisogno di una gradualità, o forse era proprio stato un errore fin dall'inizio far fare a Tambor interpretare una donna, sostanzialmente una donna transessuale, anche alla luce di quello che è successo, cioè l'attore è stato accusato di molestie nei confronti di parecchie persone che soprattutto lavoravano nella crew della serie, e quindi è stato allontanato, e poi Transparent si è chiusa con un film musical abbastanza arruffato, e quindi una pagina che poteva essere gloriosa della rappresentazione LGBTQ+ in televisione è finita un po' male, diciamo. Quindi, per usare un eufemismo. Quindi cosa facciamo? La consigliamo o non la consigliamo? Secondo me comunque le prime stagioni sono molto belle. Dividiamo l'artista dall'opera d'arte, dall'uomo. Devo dire che soprattutto, come dici tu, la prima stagione va vista anche per una serie di cortocircuiti che si creano nella visione. Secondo me va vista. Ti faccio una domanda però, perché Paolo, tu hai detto la persona e il personaggio, l'orientamento sessuale della persona è quello del personaggio, però a volte, anche se non c'è aderenza, ci sono dei personaggi secondo me costruiti deliziosamente. Il mio preferito è Cameron Tucker di Modern Family. Avanti, non è difficile, vedi come fa quel bimbo? Devi fare così. Hai visto qualche bel film ultimamente? Sì, l'altra sera io e mio marito abbiamo noleggiato Mamma Mia. E mi è piaciuto, ma non so se Meryl Streep era adatta. Lei che ne pensa? Scusate, Meryl Streep potrebbe anche interpretare Batman e sarebbe adatta. Lei è la perfezione, sia che divorzi da Kramer, sia che vesta Prada. Per non parlare poi della scelta di Sophie, mi commuovo al solo pensiero. L'attore Eric Stonestreet si dichiara eterosessuale, eppure secondo me è uno dei personaggi gay più riusciti nella storia delle sitcom. Tu che ne dici? Certo, io ho apprezzato molto Modern Family. Non è tra le mie serie, tra le mie sitcom del cuore, perché appunto rimpiazzare Will & Grace nel mio caso è veramente difficile. Però Modern Family ha fatto altri passi avanti ancora, ad esempio rappresentando appunto un nucleo familiare costituito da una coppia omogenitoriale, da due uomini che adottano dei figli. Conta fino a tre. Uno, due, tre. Ok. Cam, ti piace? Ma che diavolo è? L'ha fatto André quando non c'eravamo. Quelli siamo noi con le ali? Fluttuiamo sopra di lei pronti a proteggerla. È rassicurante, vero Lily? Ti abbiamo allontanato da quello che conoscevi, ma non preoccuparti, qui è tutto normale. I tuoi papà sono fatine fluttuanti. Chiama André e fagli dipingere qualcosa un po' meno gay. E poi basta avere amici con nomi tipo André. Il papino dai capelli rossi è arrabbiato. Non lo sono, ma sì, che lo dici? Sei. Anche Pepper l'ha notato tornando a casa. Eccone un altro, Pepper. Ok, che c'è? Va bene, senti, io... La mia famiglia non sa che avremmo adottato una bambina. E... Lo so. Davvero? Sì, e non ti biasimo, conosco la tua famiglia. Se glielo dicessi, sarebbero pronti a giudicarti. Esatto. Ti arrabbieresti. E una cosa che dovrebbe essere gioiosa si trasforma improvvisamente in una grossa lite. E chi vuole una situazione carica di tensione? Grazie, grazie. Sono felice che tu abbia capito. Li ho invitati a cena da noi questa sera. Che cosa? Ho dovuto farlo, non puoi andare avanti così. Tu sei un indeciso. No, no, no, adesso li chiamo e annullo la cena. No, non lo farai. Dirai alla tua famiglia che hai adottato una bambina. E poi è vero che sei indeciso, l'ha detto anche l'Angelus. Anch'io apprezzo molto il personaggio, mi fa molto ridere, soprattutto la sinergia della coppia che è veramente, no, adorabile, basata su dei contrasti, sulla, no, appunto anche qui sulla contrapposizione del gay un po' forse stereotipato, no, molto, molto macchiettistico, e dell'altro che cerca un po' di riportare tutto a un certo, una certa normalità. Non ti so rispondere precisamente, perché anch'io non ho un'opinione precisissima sul fatto se sia sempre necessario che gli attori abbiano, cioè condividano l'identità che portano sullo schermo. Questo sinceramente non te lo so dire. Credo che sia una questione più che altro di possibilità di accedere a dei ruoli, cioè quando idealmente tutti, come dire, gli interpreti, tutti gli attori e le attrici che si identificano, che hanno un'identità queer, avranno la possibilità di interpretare loro stessi o anche altre parti al cinema, allora si può anche pensare che attori non omosessuali o non lesbici, eccetera, interpretino questi ruoli. È sempre una questione di bilanciamento, di equilibrio, eccetera. Da parte mia non sono così, così come dire, tranchant, però è ad esempio sintomatico che, non so se hai seguito la vicenda di Batwoman, questa serie supereroistica, no, che fa parte di tutto questo grande mondo tratto dai fumetti DC, la protagonista Ruby Rose, che è una, appunto, si identifica come una persona queer, interpretava questo personaggio di Batwoman, la donna pipistrello, che anche nei fumetti è lesbica. Lei se n'è andata probabilmente per vari problemi, quindi ha abbandonato dopo la prima stagione, e l'intenzione della produzione e di Greg Berlanti, che è un altro importante showrunner omosessuale che ha fatto molto per la rappresentazione, è quella di cercare una nuova Batwoman, però sempre con un'attrice che faccia parte della comunità LGBTQ+. Quindi la tendenza, diciamo, è quella. Allora dai, c'è spazio per un paio di suggerimenti. Io devo dire, mi piacerebbe riproporre, far rinfrescare un po' la memoria di Looking, che a me piacque moltissimo, che mi manca molto. Looking, anche quello, è stato veramente una grande serie che ha avuto degli aspetti che sono stati anche quelli un'occasione persa. Anch'io mi sono affezionato moltissimo a questa dimensione di San Francisco super realistica, con dei personaggi, appunto, un cast principale omosessuale che cerca di barcamenarsi nei problemi della vita quotidiana, quindi senza fare troppi voli pindarici, ma proprio raccontando, no, anche le varie timidezze, i vari problemi di relazionarsi, eccetera, eccetera. Ce l'hanno fatta durare troppo poco, secondo me, e soprattutto sviluppando troppo poco i personaggi, che si sono, soprattutto nella seconda stagione, un po' appiattiti, quando secondo me erano personaggi che avrebbero avuto moltissimo da raccontare, soprattutto perché rappresentavano varie facce, e qui parlo da persona omosessuale e quindi mi riferisco alle varie facce dell'identità dell'uomo omosessuale, dell'uomo gay. Erano vari aspetti anche di età, di estrazione culturale, di ambizioni, quindi era veramente una bella rappresentazione che appunto avrebbe meritato molto di più. Però guardatela, soprattutto anche il film che hanno fatto per chiudere la serie è strappalacrime, è molto tenero, quindi è veramente da recuperare. Allora, le due stagioni sono su Chili, se le volete recuperare, secondo me vale la pena. E poi invece vorrei sapere da te, c'è qualcosa che ci sconsigli, Paolo? Please no! No! No! No! Allora, volevo fare in realtà un discorso un po' diverso, ovvero quello che giustamente noi parliamo di serie LGBT, perché c'è sempre più bisogno di trovare dei modelli di rappresentazione, di vedersi rispecchiati, no, nella TV, nello schermo, eccetera. C'è da dire che ovviamente le cose vanno avanti e molte serie che noi non definiremmo to cure LGBT, perché sono proprio serie mainstream che magari attingono soprattutto ad altri generi, però introducono sempre di più dei personaggi no, che sono omosessuali, delle donne lesbiche, delle persone trans. Io penso ad esempio a Billions, che è una serie bellissima e che ha questo personaggio che è Alex, che appunto è una persona non binaria o gender queer, cioè quindi non ha una definizione, non si definisce né maschio né femmina. Quindi anche queste serie, che non sono apertamente tematiche, come vorremmo dire, introducono dei messaggi, dei personaggi, delle rappresentazioni. Discorso diverso quando invece si sfruttano un po' questi personaggi. Ad esempio io, a parte che l'ho trovata in generale, l'ho trovato un progetto seriale abbastanza pessimo, ma 13, per dire, 13 Reasons Why, ha un uso dei personaggi omosessuali davvero, come dire... Non so neanche come definirlo, è veramente deteriore, perché li usa come strumenti per far andare avanti la trama, diciamo banalmente, no? Perché poi c'è quello che si rivela nel momento giusto, però poi prima c'è una violenza sessuale, cioè una scusa è che tutti i personaggi in 13 funzionano così, cioè sono tutti abbastanza spinti in avanti. Però devo dire che, ecco, se c'è da segnalare una cosa, che in alcune serie a volte si spingono dentro i personaggi queer perché bisogna che ci siano, o comunque fanno comodo da un punto di vista narrativo. Ecco, questo è da evitare. È bene che ci siano in tutte le serie, però che vengano trattati in modo dignitoso, come ogni altro personaggio d'altronde. È tutto per questo episodio dedicato alle serie con protagonisti e temi LGBTQ+. Con noi Paolo Armelli, giornalista e cofondatore della piattaforma Quid, Queer Identities. Con me a realizzare Ancora una poi smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.